Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 9 minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: ascolteremo alcuni passaggi dell'intervento questa mattina del ministro dell'economia Gualtieri a 24 mattina, quindi a Radio 24 con Simone Spezia e Maria Latella, per quello che riguarda soprattutto il MES e i finanziamenti europei. Scusate, mi ho detto Gualtieri, volevo dire Gentiloni, chiedo venia, e quindi quello che è ancora il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni, sull'utilizzo del MES, dicevo, sul il recovery plan, anche se adesso vedo molte perplessità della, per esempio, Repubblica Ceca, ce ne faremo una ragione, e su altri interventi di carattere europeo. Poi, come temi di approfondimento, per quello che riguarda il viaggio, tra virgolette, che stiamo compiendo ogni settimana nelle varie categorie produttive, torneremo a occuparci di alcuni settori, penso al mondo delle agenzie di viaggio, alla luce anche delle, più che tensioni, dichiarazioni, poi passi indietro, passi a lato, nella riapertura il tema della preoccupazione delle regioni, di alcune regioni del sud, penso Campania, Sicilia e Sardegna, ma in parte anche il Lazio, sulla riapertura di tutte le regioni. Qui sappiamo che c'è, sostanzialmente le opinioni si dividono in due, in chi dice bisognava riaprire anche il nord, Piemonte e Lombardia, perché tra l'altro sono i turisti che contribuiscono maggiormente all'economia turistica, diciamo, delle regioni che ho citato, e altri che invece dicevano attenzione, forse è prematura l'apertura di regioni come Lombardia e Piemonte, che hanno molti più casi. La Lombardia da sola fa metà dei casi, dei contagi, dei decessi, vedremo i dati di oggi. E poi parleremo del settore calzaturiero, perché è un settore che non abbiamo ancora toccato. Anche lì ci sono stati, per un settore che fattura oltre 14 miliardi di euro, c'è stato un crollo nel primo trimestre del fatturato di quasi il 40%, anche perché più o meno il 70% della produzione calzaturiera italiana va all'estero, e sappiamo che cosa è successo con le esportazioni nei primi mesi. I mercati finanziari, e soprattutto due notizie: una riguarda Cattolica Assicurazioni, che sta perdendo a questo punto, cerco il dato finale, il 16%, 15-80%, un crollo di Cattolica Assicurazioni dopo che l'IVAS, che è l'autorità di vigilanza sul mondo assicurativo, ha scritto una lettera per richiedere l'aumento di capitale da 500 milioni per Cattolica, mentre l'ex numero uno Minali, l'ex amministratore delegato di Cattolica Alberto Minali, ha chiesto quasi 10 milioni di euro di danni. Ma il crollo del titolo è dovuto ai 500 milioni richiesti dall'IVAS, non ai 9 milioni e 600 mila euro richiesti da Minali. L'altro tema forte di oggi è Mediobanca, più 8,60%, così mi sposto sui mercati. Perché è stata ufficializzata la richiesta da parte della Delfin, che è la holding di Leonardo Del Vecchio. Ha confermato oggi che il 29 maggio è stata depositata presso la Banca d'Italia la richiesta per autorizzare ad incrementare la partecipazione di Delfin e di Del Vecchio, quindi in via diretta e indiretta, in Mediobanca, portandola fino al 20% del capitale. E qui, insomma, è in atto non dico uno scontro, ma insomma una scalata vera e propria. L'accusa a Mediobanca, ho visto oggi varie dichiarazioni, per esempio un gelo, diciamo, di Piazzetta Cucci, di Mediobanca stessa: è un'operazione antimercato, vuole solo arrivare alle generali. In realtà, perché si dice questo? Perché Mediobanca, che in questo momento ha appunto Del Vecchio al 9,98%, ma vuole salire appunto al 20%, Mediobanca a sua volta controlla del primo azionista, il gruppo Generali, con il 12,86%. Da qui l'ipotesi, o meglio l'ipotesi, il ragionamento più che un'ipotesi, che il controllo di Mediobanca serva a Del Vecchio che di Generali ha già il 4,84%, per arrivare a un controllo delle Generali. Ne parleremo perché appunto da un lato Cattolica è il peggior titolo, dall'altro Mediobanca è il terzo miglior titolo in assoluto e il primo tra quelli a maggiore capitalizzazione, quindi sul FTSE MIB, sull'S&P MIB, Mediobanca più 8,60%, molto bene anche Case New Holland, CNH più 6,80%, Banco BPM più 5,80%, Leonardo più 5,40%, Tenaris più 4,70%, Generali più 3,70%, Atlantia più 3,30%, mi fermo con chi guadagna più del 3%, sia Fiat Chrysler più 3,2% e UniCredit, come Saipem, più 3% in negativo, tra quelle maggiore capitalizzazione, di Assorin meno 3,5%, Amplifon meno 1,40%, Prismian meno 1,30%, Mediolanum meno 1,1%. Complessivamente va bene Milano, guadagna l'1,80%, percento, Parigi più 1,5%, Londra più 1,30%. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Dicevo i temi, oltre al mondo calzaturiero ci occuperemo anche della grande distribuzione, oggi nuovi dati su come sono andate le vendite nei negozi piccoli, medi e grandi. Dovrebbero essere praticamente gli ultimi dati del periodo, diciamo, lockdown, perché riguardano da lunedì 4 a domenica 24 maggio, quindi è una fase 2 dove erano riaperti, potevano riaprire anche in alcuni casi gli altri negozi, ma diciamo con questo dovrebbe essere finito l'effetto, tra virgolette, chiusure, unici negozi aperti, quelli di carattere alimentare. E poi avevo promesso il tema della scuola che non mollo e vedo che ci sono problemi a reperire i commissari per la maturità, lo trovo scandaloso, lo dico perché comunque gli insegnanti non sono in cassa integrazione, sono a tempo pieno, vengono pagati, quindi se c'è da fare una cavolo di maturità è inaccettabile che qualcuno inizi a dire avanzare scuse o timori ci possono essere per tutti, ma valgono anche per gli infermieri, valgono anche per i baristi, per i camerieri, valgono per tutti quelli che hanno a che fare con il pubblico e sono aperti, quindi per favore vediamo di essere seri, lo dico a quegli insegnanti che stanno campando scuse per non fare da commissario agli esami di maturità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, andiamo con le altre notizie in breve. Abbiamo parlato molto anche nel GR24 giustamente degli scontri pesantissimi negli Stati Uniti. Faccio notare che oggi però vi sarebbero almeno 230 persone morte, tra cui 6 agenti, altre 7.000 ferite, compresi 5.000 poliziotti, durante le proteste che sono scatenate in Iran. Il dato però non riguarda scontri di oggi, ma riguarda quello che era successo a novembre. Essendo l'Iran non certo una democrazia, il dato è stato fornito oggi ed è molto vicino a quello fornito a suo tempo da Amnesty International, che parlò di 300 morti. Andiamo all'Europa. Allora, la produzione di auto nel Regno Unito ad aprile è praticamente chiusa, ha fatto meno 99,7%. La cosa interessante sarebbe capire il 0,3%, sono 197 auto in tutto quelle che sono state vendute nel mese di aprile, di cui 45 per il mercato interno e 152 per esportazione. Si trattava solo di modelli premium, di lusso, sportivi, cioè praticamente le auto normali non si sono vendute in Gran Bretagna. In Francia c'è stata una leggera risalita dell'indice dei PMI, cioè dei responsabili acquisti, è risalito a 40 punti contro i 31 punti e mezzo di aprile, un anno fa era 50,6. Ricordiamo sempre che questo indice segnala dai 50 punti in giù recessione, dai 50 punti in su espansione economica, però c'è stato un leggero recupero. Invece molto basso in Germania, che è ancora a 36,6 punti, un anno fa era 44,3 punti. Per quello che riguarda, dicevo, l'intervento del commissario all'economia dell'Unione Europea Paolo Gentiloni, ha detto attenzione, i prestiti sia Sure per il mondo del lavoro, mercato del lavoro, della Banca Europea degli Investimenti e il MES sono particolarmente vantaggiosi per l'Italia, visto che noi per finanziarci sui mercati, quando offriamo BOT, BTP, abbiamo tassi di interesse, dobbiamo offrire tassi di interesse molto più alti. Questi tre prestiti sono ovviamente particolarmente vantaggiosi per paesi che hanno normalmente un tasso di interesse più alto, no? Quindi a un paese come l'Italia conviene avere questi tre tipi di prestiti più che agli altri paesi, perché diciamo la verità, un paese come la Germania, per fare un esempio, se ha bisogno di farsi prestare dei soldi per sostenere le spese sanitarie, ha una possibilità di farseli prestare sui mercati finanziari con dei tassi di interesse addirittura migliori, perché sono negativi, di quelli che il MES offre e che sono vicini a zero. Però invece per l'Italia fa una certa differenza, quindi certamente sono tutti strumenti utili. La Commissione ha lavorato molto per togliere a questi strumenti le condizionalità che all'inizio c'erano. E c'erano perché in particolare questo meccanismo europeo di stabilità, che così si chiama spesso anche Fondo Salva Stati, era stato concepito per tutta un'altra finalità, cioè paesi in difficoltà che chiedevano aiuto, Grecia, Spagna, Portogallo, e abbiamo dovuto modificare molte regole attuative per evitare queste condizionalità. Oggi io posso solo dire che non ci sono. E poi Gentiloni ha parlato del recovery plan, ha detto per la prima volta l'Unione Europea ha un vero volume di fuoco, ripeto, vedo ancora molte resistenze in alcuni paesi, dopodiché i paesi dell'est, la Repubblica Ceca fortemente contraria, Praga fortemente contraria. Ho visto che nel recovery plan una fetta importante, oltre che a Francia e Spagna, verrebbe data anche alla Polonia. I paesi dell'est si devono ricordare quanti aiuti hanno avuto in questi anni per la convergenza, e quindi prima di parlare si facciano un esame di coscienza. Dopodiché faccio notare, senza nessun intento politico, che tutte le resistenze a un piano europeo, lo dico in maniera molto chiara, non arrivano dai burocrati europei, che hanno tanti difetti, quello che volete, ma arrivano dai paesi sovranisti. Quindi a un certo momento un partito sovranista deve capire che le resistenze, chi non vuole dare soldi agli altri paesi, sono i sovranisti, punto e basta. Non sono certo i paesi europeisti, e bisogna dire che la Germania in questo momento sta cercando un'opera di mediazione su questo, per cui uno si faccia anche un esame su quello che porta il sovranismo, perché poi la solidarietà europea è solo di chi è almeno come dichiarazione europeista, non certo di chi pensa agli interessi del suo paese in primis. E ha detto poi Gentiloni sul recovery plan: è presto per dire che sia un'occasione sprecata, sono fiducioso che vi sarà un'intesa. Per dire che la stia sprecando sembra un po' presto. Dal punto di vista dei tempi, adesso questo, diciamo, il primo pacchetto è quello di cui abbiamo parlato adesso, sanità, piccole e medie imprese, cassa integrazione. Qui ci sono prestiti vantaggiosi per un paese come il nostro, e sono attivabili in queste settimane. Bene, sono un pacchetto di 500 miliardi, quindi una cosa significativa. Il secondo pacchetto, che è invece di 750 miliardi e che contiene tra l'altro 500 miliardi di sussidi a fondo perduto, ha bisogno ancora di un'intesa tra i governi, perché questa è la proposta nostra della Commissione, e io confido che l'intesa sarà raggiunta e poi dalla ratifica dei parlamenti. Quindi ci vorranno, entrerà in funzione, tranne alcune piccole cose anticipate quest'anno, dal 1 gennaio dell'anno prossimo. E poi devo dire che anche ieri il ministro Gualtieri aveva detto, insomma, di essere fiducioso che l'accordo possa essere concluso entro luglio. Poi è chiaro che l'attivazione dell'accordo, da quello che abbiamo capito, partirà dal primo gennaio. Vorrei far ascoltare ancora un ultimo passaggio di Gentiloni, quando dice: attenzione, per l'Italia e come tutti i paesi dell'Unione Europea, utilizzate gli strumenti per obiettivi importanti, quindi transizione ambientale, innovazione tecnologica e digitale. Non fate finanziamenti a pioggia in mille rivoli. Su questo devo dire che anch'io sono un po' superata questa fase dell'emergenza pura, cioè del lockdown. Lo continuo a dire, a costo di risultare anche noioso, bisognerà pensare alla fase 3, adesso che tutto praticamente sta per riaprire, anche la circolazione tra le regioni, a settori, ogni settore in maniera specifica. Alcuni potrebbero anche non aver bisogno di ulteriori così agevolazioni, altri invece andranno tenuti in vita il più possibile, perché attraverseranno il guado, sarà molto più lungo. Penso al settore del turismo, ma non solo. Abbiamo fatto l'elenco nelle settimane scorse: il settore fieristico, il settore del turismo, l'alberghiero, alcuni settori di carattere manifatturiero che lavoravano molto col mercato interno, nella speranza che invece il commercio internazionale, non dico che torni ai livelli dell'anno scorso, ma comunque possa riprendersi. E lì devi andare a mirare gli interventi. E comunque Gentiloni dice: attenzione, abbiate, e quella è un po' che si chiama la visione del futuro del paese, cioè decidere dove puntare, infrastrutture anche digitali, transizione verso il green. E lo ricordo lo stesso Gentiloni oggi. Segnalo all'Italia, come a tutti i paesi dell'Unione, che questa occasione dovrebbe essere utilizzata per affrontare obiettivi sia di ciascun paese e sia a livello europeo, come posso dire, di una certa importanza. Abbiamo la transizione ambientale, abbiamo da investire sull'innovazione tecnologica e digitale, abbiamo da risolvere in molti paesi problemi così dire antichi. Ecco, questa è l'occasione per avere delle risorse in questa direzione, non per spartagliare risorse che peraltro in molti casi i governi nazionali hanno già mobilitato nelle settimane scorse. Quindi non si tratta di aggiungere qualcosina alle cose già decise dai governi nazionali, si tratta di fare una cosa indirizzata per una volta un po' al futuro. Ne abbiamo un gran bisogno. E evitare mille rivoli, evitare misure che non abbiano un profilo di investimento, di priorità, insomma, già lavorarci, anche perché la Commissione europea poi lascia ai paesi la responsabilità di fare queste proposte, ne discuterà ovviamente con i paesi e poi vorrà verificare che gli obiettivi indicati, i tempi indicati siano rispettati, come sempre avviene con i quattrini europei, e quindi non va preso alla leggera, ecco. E allora restiamo sull'Italia, dunque, dati, lo spread mi chiedete a 190 punti, quindi buono oggi. Allora, l'INPS, quindi parliamo delle misure ancora in atto. Da oggi si possono presentare domande da parte dei datori di lavoro che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare, quindi per l'emersione degli irregolari. La regolarizzazione è circoscritta ai settori dell'agricoltura, della pesca, dell'assistenza alla persona e dei lavori domestici. La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il servizio dedicato che c'è dentro il portale dell'istituto, dal 1 giugno 2020 fino al 15 luglio 2020. Poi alcune interpretazioni, i licenziamenti, perché dal 17 marzo, data dell'entrata in vigore del decreto Cura Italia, per i successivi 5 mesi è vietato per le aziende licenziare per giustificato motivo oggettivo, restano validi solo i motivi disciplinari, ma nel caso vi fosse un licenziamento il lavoratore ha diritto ad avere la NASPI. L'INPS però ha anche chiarito che il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo non vale per i lavoratori domestici. Allora, le domande al fondo di garanzia. Le domande pervenute al fondo di garanzia sono a questo punto 470.000, scusatemi, per 21 miliardi e 700 milioni. Di queste la stragrande maggioranza, 427.000, per i finanziamenti fino a 25.000 euro, pari a 8 miliardi e 900 milioni. Queste sono le domande che sono state girate, diciamo, dalle banche al fondo di garanzia. Dunque, ancora, poi c'è il Ministero dell'Economia che e la Cassa Depositi e Prestiti che hanno sottoscritto la convenzione per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, delle regioni e delle province autonome. Come va invece l'indice PMI italiano? Beh, va meglio di quello tedesco e anche di quello francese. È dai 31 punti il nostro, quindi l'indice che è, misura le intenzioni dei purchasing manager, quindi dei responsabili degli acquisti, è salito a 45,4 punti. E chiaramente un anno fa eravamo a quasi a 50. Però è salito più, per quello che vuol dire, delle previsioni. Ripeto, la Francia si è fermata a 40, la Germania a 36, noi siamo a 45,4 punti. Però arriva poi il dato del Centro Studi di Confindustria: la produzione industriale a maggio ha fatto meno 33,8%. Allora, il dato è chiaramente un crollo drammatico, però è in miglioramento di 10 punti, 11 punti rispetto ad aprile. Perché questo? Perché sappiamo che 4 maggio, anzi tra fine aprile e 4 maggio, hanno riaperto la stragrande maggioranza delle imprese manifatturiere che erano ancora chiuse, più o meno una su due, e infatti maggio ha fatto meno 34% sul maggio precedente come produzione industriale, ma ha fatto più 31,5% su aprile. E quindi, detto ciò, la variazione acquisita della produzione industriale, cioè come sta andando la produzione industriale nel secondo trimestre, e quindi ammesso che giugno faccia zero, è già meno 27,7%. E il Centro Studi Confindustria stima che, visto che il calo della produzione industriale si attesterà intorno al 20%, il PIL nel secondo trimestre farà un meno 5%, e aggiunge: attenzione, si rischia l'esplosione di un'emergenza sociale, molti imprenditori soffrono per la carenza di liquidità e molti si stanno navigando a vista in uno scenario di estrema incertezza. E poi le reazioni alla dichiarazione dell'intervista del nuovo presidente di Confindustria Repubblica, Carlo Bonomi, che ha detto: attenzione, la narrazione secondo cui una volta passata la pandemia tutto tornerà come prima è una falsità, la realtà è un'altra. Gli imprenditori sono fortemente preoccupati, in autunno molte imprese non riapriranno, altre dovranno ridimensionarsi. Non sappiamo cosa succederà domani, né che ne sarà delle commesse, degli ordini dei fornitori. E poi ha detto: attenzione, il governo ha bloccato i licenziamenti fino ad agosto, ma i posti di lavoro e il lavoro non si gestiscono per decreto. E poi la parte che ha fatto più discutere la politica, quando ha detto: questa politica rischia di fare più danni del Covid. Ha risposto il ministro Gualtieri, ha detto: alcune parti dell'intervista di Bonomi sono state ingenerose. Anche Andrea Orlando, vice segretario del PD, che ha detto: non è accettabile che la politica tutta sia accostata ad un virus. Per quello che riguarda invece le altre notizie della giornata, segnalo che l'ANAC ha lanciato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, 3 proposte per sbloccare e semplificare i tempi, ridurre i tempi e semplificare i tempi di verifica dei requisiti per chi partecipa alle gare. Insomma, in vista della preparazione del decreto semplificazioni, spero che il governo guardi con attenzione la proposta dell'ANAC. Poi sono occupato anche il Papa, dicendo che il codice degli appalti, parla del Vaticano, però consentirà di ridurre i rischi di corruzione. Vabbè, questo però riguarda lo stato del Vaticano. Ancora, per quello che riguarda invece i spostamenti regionali, nuovo botte e risposta, nuove proposte, insomma, passi a lato più che passi indietro, e ne parliamo, visto che parleremo anche di turismo e di altri settori produttivi, dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. 17:37 minuti. Allora, veniamo adesso agli spostamenti, però prima di tutto tra le regioni, e anche perché riguarda moltissimo il mondo del turismo, però vorrei far sentire che cosa ha detto oggi Raffaele Alberto Zangrillo, primario del reparto di anestesia e rianimazione del San Raffaele. Perché adesso è stato pubblicato, tra l'altro, lo studio a cui faceva riferimento Zangrillo, 200 pazienti ricoverati da San Raffaele di Milano da marzo a maggio, lo studio coordinato da Massimo Clementi, che è direttore del laboratorio di microbiologia e virologia, e dove si dice che il virus si replica molto meno rapidamente e la minor gravità della malattia e minor ricorso al ricovero in terapia intensiva. Ora è venuto fuori chiaramente polemiche di tutti i generi. Io non ho nessuno strumento, nessun elemento per sapere se per valutare queste polemiche. È importante invece il dato clinico per capire come stiamo riaprendo anche questo paese. Personalmente, ed è solo un giudizio personale, dopo aver ascoltato con molto interesse i virologi nel primo mese e mezzo dell'epidemia, della pandemia, avevo detto banalmente, come giudizio solo personale, che adesso è il caso, da un po' di settimane, non adesso, di ascoltare un po' di più i clinici, cioè non solo chi sta in laboratorio, ripeto, meglio che stia in laboratorio che in televisione, ma anche chi è in reparto e quindi vede effettivamente come arrivano questi nuovi pazienti, se arrivano in condizioni, per esempio con l'attacco pneumologico molto grave o più leggeri, come dice Zangrillo, come dicono altri suoi colleghi clinici, cioè che stanno in reparto, tutto qua, e quindi vedono la gravità, se sono da mettere in terapia intensiva oppure se quasi sempre non c'è bisogno della terapia intensiva. I virologi fanno bene a fare il loro lavoro, stiano in laboratorio e cerchino di capire se questo virus si è mutato o no e tutto il resto. Però io poi devo ascoltare i medici che sono in corsia, in reparto. Sentiamo Zangrillo oggi da Alessandro Milan con Uno Nessuno e 100 Milan. Io, se vuole, le dico la verità, gliela dico ufficialmente, in modo che tutti gli italiani se ne facciano una ragione. Allora, oggi è il 31 di maggio e circa un mese fa sentivamo gli epidemiologi dire di temere grandemente la fine del mese, l'inizio di giugno, per una nuova ondata e chissà quanti posti di terapia intensiva da occupare. In realtà il virus, praticamente dal punto di vista clinico, non esiste più. Questo lo dice l'Università Vita e Salute San Raffaele, lo dice uno studio fatto dal virologo direttore dell'Istituto di Virologia, professor Clementi, lo dice insieme alla Emory University di Atlanta, professor Silvestri. Tamponi eseguiti attualmente negli ultimi 10 giorni hanno una carica virale dal punto di vista quantitativo assolutamente infinitesimale rispetto a quelli eseguiti su pazienti di un mese, 2 mesi fa. Tutto qua, è inutile fare la guerra, cioè ascoltiamo chi è in reparto, chi è in clinica. Tutto, no? I virologi hanno parlato, hanno fatto bene a parlare, hanno detto cose molto diverse, mascherine sì, tamponi mascherine no, tamponi sì, tamponi no. Bene, io l'ho detto senza offesa, tornino in laboratorio o restino di più in laboratorio e meno in televisione. Adesso quello che potevano dire l'hanno detto. Vorrei anche delle analisi molto serie sul tasso di diffusione, i luoghi della diffusione. Basta, diciamo, prediche e predicozze. Abbiamo capito tutto, tutti noi, e mi sembra che ci siamo comportati complessivamente bene, cosa fare, cosa non fare. Però dateci anche dei riscontri sul campo, operativi, non teorici, magari in laboratori d'altra parte dell'oceano o così, eh? Meno in TV, anche perché poi il virologo non è abituato ad andare in TV e quindi poi rischia di... bisogna sapere maneggiare lo strumento, eh? Poi rischi di creare così fenomeni televisivi. Perché poi tutti noi abbiamo un narcisismo, figuratevi, vi parla se non ce l'ha. Però non faccio il virologo io. Allora, il tema del turismo. In Sardegna adesso Solinas ha cambiato idea. Dunque, il presidente della regione Sardegna ha detto: nessuno sarà messo in quarantena, non è più prevista la quarantena per i voli domestici. Questo, diciamo, per chi arriva in Sardegna. E ha detto un bonus da spendere in Sardegna per chi fa il test. È chiaro che è sostanzialmente la patente, il patentino di immunità è crollato prima ancora di partire, non poteva essere incostituzionale Per venire in Sardegna il 3 giugno è sufficiente fare una prenotazione e noi invitiamo tutti i turisti a prenotare perché l'isola intende accoglierli a braccia aperte. Stiamo cercando di trovare un punto di intesa sul modello che proponiamo, appunto si può, la regione rimborserà, potremmo riconoscere un piccolo voucher per, per chi si fa il test, insomma, mi sembra qua, ma stare zitti, no, in questa fase, anche perché da quello che ci risulta gli operatori turistici sardi hanno telefonato al presidente Solinas dicendo: oh, non è che possiamo fare tagliar fuori le regioni che più che non vuol dire, ripeto, io ero molto scettico nell'apertura della Lombardia al 3, per cui, ma non puoi neanche adesso iniziare con i patentini da qua e là delle regioni che ti portano il grosso, il 20% del turismo italiano è lombardo e rappresentato l'anno scorso il 12% di tutto il turismo sardo. Siccome gli stranieri arriveranno meno, io spero che non arrivino, ma arriveranno meno, attenzione. Le preoccupazioni di chi rappresenta i tour operator, Pierre Zaia, consigliere di Astoi, Confindustria Viaggi, direttore operativo tour operating di Alpi Tour, al microfono la nostra Livia Zancaner, invece sulla parte che riguarda la Grecia e il resto d'Europa, perché sapete cosa è successo, chi vuole andare in Grecia da Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto dovrà fare quella quarantena, 14 giorni se positivo, 7 se negativo, ma chi ci va in questo modo? Comunque, Astoi. Le conseguenze sulle strutture non saranno particolarmente rilevanti perché la maggior parte delle strutture le prevediamo in apertura a luglio sulla Grecia. Siamo più preoccupati invece delle decisioni che continuano a interessare la Sardegna. Quello che si deve capire è che il turismo non è un qualcosa che si può attivare da un giorno con l'altro, richiede sempre 2 o 3 mesi di tempo tra quando si dichiara che tutto è aperto a quando la struttura verrà ragionevolmente occupata, e quindi bisogna al più presto dare informazioni certe, chiare, di apertura senza creare malintesi, creare dubbi. Qual è l'impatto dell'emergenza sanitaria sul turismo organizzato? Nel settore del tour operator, agenzie di viaggio e agenzie di eventi si avvicina a circa 20 miliardi di fatturato con oltre 80.000 addetti, e noi abbiamo stimato che la previsione più pessimistica prevede che se ne perderanno 14 o 15 milioni di questi 20 di fatturato, la previsione più ottimistica se ne perderanno 7-8, comunque un danno veramente molto rilevante verso il quale poco è stato fatto dal punto di vista governativo, perché ricordo che il fondo stanziato per tour operator e agenzie di viaggi, a fronte di un danno di circa 8 miliardi nella previsione più ottimistica, è limitato a 25 milioni di euro, quindi sostanzialmente il nulla. E poi invece l'altro settore, un altro settore che analizziamo, l'autotrasporto, 1 miliardo 800 milioni di euro persi per il lockdown. E una denatalità, cioè imprese che supera il 30% rispetto all'anno scorso. Questi dati di Conftrasporto, Confcommercio nel mese di marzo e aprile. Sentiamo al microfono il nostro Andrea Ferro, il vicepresidente di Conftrasporto, Confcommercio, Paolo Uggè. 2 miliardi di fatturato persi dalle imprese di autotrasporto, 900 milioni di chilometri in meno percorsi. Il rischio che il pagamento delle fatture slitti di qualche mese e quindi a settembre le imprese saranno in difficoltà. Meno 35% di nuove imprese che sono diventate imprese di autotrasporto. Questi sono dati che dimostrano come il coronavirus abbia colpito il settore dell'autotrasporto. È vero, alcuni hanno lavorato per garantire all'Italia di non fermarsi, ma proprio per questo dobbiamo loro riconoscenza e il governo deve mettere a disposizione liquidità immediata per evitare che le imprese debbano chiudere e i lavoratori restare senza occupazione. Adesso qualcuno mi sta insultando perché ho difeso non Zangrillo, io difendo i clinici, cioè che, ma appena scritto un cognome, un infermiere del 118 di Brescia dice: non posso che confermare che su tutto il territorio non c'è più riscontro clinico di Covid-19. Abbiamo, come sempre, abbiamo avuto insufficienza respiratoria di varia natura, ma i numeri sono identici, non si discostano da quelli di maggio 2019. Sarebbe ora che i virologi tornassero in laboratorio perché da gennaio non ne hanno centrata una. Adesso questo è un giudizio personale, però possiamo parlare con i primari, gli infermieri e i 118, così, per approccio scientifico, io tendo ad essere abbastanza empirico, mi fido di chi sta sul campo, non di chi, diciamo, studia e non ha in mente un virus sconosciuto e obiettivamente, insomma, la scienza non è mai, cioè in questo caso va per tentativi, diciamo che i virologi hanno tentato molto, ecco, in questo sono stati molto scientifici. Presidente di Asso Calzaturifici e di Micam, Sirio Badon, buonasera. Buonasera a lei, grazie per l'invito. Allora, grazie a lei, era un settore che non eravamo ancora riusciti a toccare, ma praticamente sono tutti in ginocchio i settori. Qualcuno continua a chiedermi della produzione industriale a maggio, è andata meglio rispetto ad aprile, ma soprattutto ha fatto però un 34% in meno rispetto a maggio 2019. Dico meglio perché aprile aveva fatto rispetto ad aprile del 2019 meno 44%, quindi sono 10 punti recuperati perché qualcosa tutto ha riaperto entro il 4 maggio, tant'è che il dato maggio su aprile è un più 31%, ma maggio su maggio, quello che guardiamo il tendenziale anno su anno, è ancora un meno 34%. Voi rappresentate un settore che sostanzialmente fattura 14 miliardi di euro, 4.300 aziende, 77.000 addetti e esportate come calzaturieri l'85% della produzione. Noi vi abbiamo lodato negli scorsi anni perché il settore che era entrato in concorrenza 15 anni fa con la Cina subito si è spostato nella fascia medio-alta, e tant'è che avete un attivo commerciale, cioè la differenza tra quanto esportiamo in calzature e quanto importiamo è a vantaggio delle esportazioni per 5 miliardi. Si è fermato tutto per via dell'export, Badon? Ma guardi, diciamo che si è fermato tutto per il blocco praticamente generalizzato dei negozi. Beh, certo. Noi abbiamo avuto l'ultimo appuntamento ufficiale ed utile con il MICAM di febbraio e gran parte degli ordini fatti in quell'occasione, lei sa il MICAM, ci siete già sentiti qualche altra volta, dal MICAM, MICAM è la fiera internazionale più importante per quanto riguarda le calzature. E dopo la chiusura di quasi tutti i negozi, chiusura delle frontiere, eccetera, il 50% degli ordini sono stati annullati. Non si è più potuto spedire, non è stata fatta campagna vendite. Perciò noi abbiamo perso quasi un 50% di ordini, oltre che un 38% di fatturato. Abbiamo perso il primo trimestre 1,7 miliardi di fatturato. Sicché ci troviamo in una situazione drammatica perché con i negozi chiusi adesso non riaperto, si è fermato tutto adesso, capito, però... il problema sa qual è? Che a differenza magari di qualche altro settore merceologico dove magari hanno un articolo brevettato e hanno degli ordini o sono sul mercato, aumentano la produzione, lavorano ad agosto, lavorano in più, eccetera, possono consegnare, ma noi abbiamo un prodotto stagionale, quello che non abbiamo consegnato a febbraio, marzo, non lo possiamo più consegnare, perché abbiamo le aziende che hanno i magazzini stracolmi, certo, di merce che non venderanno mai più. Allora, vediamo di capirci su una cosa, perché da un lato, da un punto di vista economico, il settore delle calzature è quello che si chiama di beni semi durevoli, cioè come gli abiti, nel senso che non sono beni durevoli come l'elettrodomestica o l'elettrotecnica, però non sono neanche beni di consumo frequente come gli alimentari. Lo dico per questo motivo, perché in questo caso uno potrebbe immaginare che le calzature che non ho comprato in questi 2 mesi e mezzo di lockdown totale, cioè i negozi hanno riaperto il 18, potrò comprarle, nel senso ne ho bisogno, e in alcuni casi potrò comprarle nelle prossime settimane. Però visti i numeri che fate, cioè solo il 15% del fatturato è fatto in Italia, mi sembra più importante per voi il fronte estero oltre che quello italiano, e vorrei sapere se volete confermare il MICAM a settembre, perché poi per il fronte estero sono fondamentali i momenti espositivi, inutile girarci attorno. Guardi, il MICAM di settembre sarà il primo appuntamento per i calzaturieri italiani per poter fare business. Per non fare il MICAM ce lo devono impedire. Sappiamo tutti com'è la situazione in Lombardia. Noi stiamo confermando, abbiamo mandato le iscrizioni, le domande di iscrizione ai partecipanti. Noi siamo fiduciosi nel MICAM, ci mancherebbe. Però, ripeto, dobbiamo ascoltare quello che dice, a parte che lei appena ha parlato di quello che ha detto il medico, il professore Zangrillo. Prima, questo ci dà molta fiducia, speriamo che che quello che dice. Ma questo ce lo auguriamo tutti. Infatti, ce lo auguriamo tutti. Il MICAM è un appuntamento determinante per i calciatori italiani, ma non solo. Non solo, è una fiera internazionale importantissima. Quindi, però, lei mi sta confermando, Badon, che la ripresa per voi potrà venire solo in gran parte dal fronte estero, ho capito bene? Ma guardi, noi esportiamo l'85% di quello che produciamo. E mi ricollego un po' a quello che ha detto prima sul bene durevole. Non esportiamo un prodotto standard. Oggi quello che vuole il mondo da noi è il fashion, è il ben fatto, è l'artigianalità. E l'artigianalità purtroppo deve seguire le mode, deve seguire le tendenze, i colori. Questo è il punto, non è che facciamo tutte scarpe nere o marroni, no, ma se certo, non vanno certo. Quest'anno vanno l'anno prossimo. No, poi quelle marroni fanno, si diceva una volta, pandan con i denti gialli. Senta una cosa, allora, se non mi faccio fare battute, però... No, allora, l'ultima domanda che ho per lei. Quali mercati in qualche modo temete di più? Cioè, la Cina, dove c'era il fronte Cina più Hong Kong, che per voi è il quinto mercato di sbocco in valore... Oppure i mercati europei, perché insomma la Svizzera, la Francia sono un terzo delle vostre vendite in valore, però c'era poi anche Russia e Medio Oriente. Quali mercati temete di più e quali invece vi aspettate possono dare qualche segnale invece di ripartenza? Ma guardi, dai dati che abbiamo, il mercato cinese è ripartito alla grande e noi siamo molto fiduciosi. Il problema è la difficoltà di spostamenti. Mi auguro che venga tutto, che si sistemi tutto. La nostra produzione sono rivolte al mondo. Non abbiamo mercati di riferimento, abbiamo mercati dove siamo più o meno presenti. Però il fatto che la Cina sia partita è già un motivo di positività per quanto riguarda le esportazioni dei nostri prodotti. E aspettiamo con ansia anche l'apertura Nord Europa, che è... Senta, mi dice un'ultima battuta, Badon, sul fronte degli ammortizzatori sociali invece, che risposte avete avuto? Quindi come tutto il resto d'Italia. Cioè? Chi ha avuto la fortuna di lavorare in aziende dove sono state anticipate le casse integrazioni? Quindi quella ordinaria e straordinaria. Esatto. Mentre ci sono delle realtà che non vedono le casse integrazioni da marzo. E quella è la deroga che ha funzionato male, malissimo, soprattutto nelle prime settimane, perché ogni regione ha bisogna passare per le regioni. Spero. Ma non solo quella in deroga, parliamo anche di quella tradizionale. Mm-hmm. Sì, beh, certo, se tu non hai anticipato, che cosa fanno le aziende che possono? Anticipano e poi vanno a fare credito d'imposta sull'INPS, no? Esatto. Vabbè, in bocca al lupo a lei, Badone, a tutti i suoi associati e quindi alle 4.300 aziende che si occupano del settore calzaturiero in Italia e i 77.000 addetti. Oh mio Dio, c'è qualcuno che non ha una mazza da fare oggi se non insultarmi, perché non ho dato ragione a Zangrillo, ho detto che ascolto i clinici, ma continua così. Sei incoerente... Cosa aspettarsi da uno come te? Vabbè, dai, ho capito. Ma che ti sei bloccata la radio sul canale di Radio 24 che non riesce a cambiare? E lei ascolti i virologi? Tutti abbiamo ascoltato i virologi. C'era l'appuntamento con Borrelli, chi se lo dimentica? Alle 18 in punto, era diventato palinsesto di questo programma. Tutti abbiamo sentito i virologi. Si può ascoltare anche i clinici e anche gli infermieri o devono parlare solo i virologi da laboratorio? Da salotto, diciamo, da laboratorio. La borsa oggi vuol dire soprattutto Mediobanca da un lato e Cattolica Assicurazione dall'altro. Paolo Paronetto, buonasera, Radio Corriere del Sole 24 Ore. Buonasera a tutti. Paolo, partiamo da Cattolica, abbiamo un minuto, poi invece andiamo sulla Generali, che è un po' più articolata. Il titolo è il peggiore in assoluto della borsa oggi, ha perso alla fine il 16,90%. Se ho ben capito, non è tanto la richiesta di 9.600.000 euro da parte dell'ex amministratore legato Minali come danni, ma che l'IVAS, l'autorità di vigilanza, abbia chiesto a Cattolica di aumentare il capitale di 500 milioni? Sì, esattamente, è arrivata infatti, è stato reso noto nel weekend che il CDA ha ricevuto una lettera dell'IVAS preoccupata per la solvibilità della compagnia, che chiede un piano per un rafforzamento patrimoniale da 500 milioni e proprio prima dell'apertura del mercato il CDA della compagnia veronese ha comunicato di aver preso atto della comunicazione dell'IVAS e ha annunciato che ne metterà a punto un piano per il rafforzamento patrimoniale della compagnia, quindi il mercato sconta già l'arrivo appunto di questo aumento di capitale e il titolo, come hai detto tu, è stato il peggiore della seduta e ne ha risentito fin dalle prime battute. Allora, invece parleremo del resto dell'indice più 1,80% oggi e anche invece del caso Mediobanca, che è il miglior titolo tra quelli di maggiore capitalizzazione, più 8% ed è il quinto miglior titolo in assoluto dopo il GR24. 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso arriviamo al commento di borsa con Paolo Paronetto sulla vicenda Mediobanca, però devo dare come sempre a quest'ora l'aggiornamento sui dati diffusi dalla Protezione Civile. Allora, dati anche di oggi, e come sempre diamo più importanza, abbiamo capito anche noi, al ricoveri, terapie intensive e poi chiaramente i decessi. I decessi, parto da due decessi, sono per fortuna molto bassi, sono 60 persone, è uno 0,2% in più rispetto a ieri, e devo dire che ieri erano 75, il dato è basso anche rispetto alla settimana scorsa. I guariti sono 848 in più e quindi dato bassino anche questo. Attenzione che lunedì commentiamo sempre i dati della domenica, delle volte c'è stato un ritardo nelle segnalazioni. Comunque 848 in più, i positivi sono 658 in meno e quindi da questo punto di vista c'è un meno 1,6% e andiamo il totale dei contagi fa più 250, in terapia intensiva 11 persone in meno, meno 2,5, i ricoveri sono 300 in meno, meno 4,4%. Sembrano tutti dati in linea con quelli degli ultimi giorni, per cui soprattutto sul fronte ricoveri, terapie intensive e decessi. Sappiamo che gli altri si basano anche sul numero di tamponi effettuati. Speriamo che continuino così. Torniamo, i malati sono 708 meno di ieri. Un attimo, che sto guardando l'ultimo dato. I guariti appunto 884 più di ieri. In totale in terapia intensiva ci sono ancora 424 italiani. I malati, dicevo, 708 meno di ieri e quindi 41.367. I contagiati in più di ieri sono 178 e quindi il dato è buono, è il dato più basso dal 26 febbraio. Che portano complessivamente il numero totale a 233.197, quindi compresi i decessi e i guariti. E in Lombardia 50 positivi in più, che appunto sono un terzo, non la metà, meno dei giorni scorsi. Nei giorni scorsi la Lombardia faceva più o meno la metà dei nuovi positivi. Paolo Paronetto, veniamo alla vicenda Mediobanca, perché allora Mediobanca è lo snodo per il controllo delle generali, nel senso che Mediobanca ha il 12,86% di generali e poi c'è il 4,80% di Del Vecchio, il 4% di Benetton e via così. Mediobanca però a sua volta ha Del Vecchio con il 10% dentro. Del Vecchio oggi attraverso la Delfin ha confermato, la Delfin, la holding finanziaria, che il 29 maggio ha chiesto alla Banca d'Italia l'autorizzazione a salire dal 10% fino al 20% del capitale. Il titolo è cresciuto molto oggi e infatti, dicevo, è il miglior titolo tra quelle maggiore capitalizzazione. E immagino, di solito la borsa si entusiasma sull'ipotesi di una lotta per il controllo di Mediobanca, più 8,1%. Sì, esattamente. È scattata fin dall'avvio, il titolo Mediobanca ha chiuso a 6,308 euro, quindi si è riportata sui livelli pre-lockdown, quindi dei primissimi giorni di marzo. L'annuncio di Del Vecchio, che ormai di cui si parlava, questa richiesta di salire al 20%, si parlava in realtà da fin da quando Del Vecchio era entrato con una prima quota del 6% e poi a ridosso del 10% verso gli ultimi mesi dello scorso anno. È stata concretizzata, annunciata ufficialmente questa mattina, e adesso la BCE ha 60 giorni lavorativi di tempo prorogabili fino a un massimo di 90 giorni per rispondere alla richiesta di Del Vecchio. Fonti di mercato fanno notare che se è passato così tanto tempo da quando Del Vecchio ha iniziato a sondare la BCE alla presentazione della richiesta ufficiale, può essere che si sia di fatto già trovata una quadra informalmente e quindi non ci dovrebbero essere problemi. Naturalmente molti analisti hanno commentato il fatto che questa richiesta e quindi il fatto che Del Vecchio sia sul mercato a breve per l'acquisto di un altro 10% naturalmente ha messo le ali al titolo, anche se come dire, c'è un valutazione in chiaroscuro, dato che Mediobanca ottiene consenso unanime tra gli analisti, quasi tutte le banche d'affari hanno giudizi positivi sul titolo, e il fattore chiave di questi giudizi è l'attuale management guidato dell'amministratore delegato Alberto Nagel. Quindi un'eventuale modifica della governance, nonostante le dichiarazioni amichevoli rilasciate da Del Vecchio negli ultimi mesi nei confronti dei vertici della banca, e comunque qualunque possibile modifica, dicevo, potrebbe non essere vista di buon occhio. Quindi dopo questa reazione positiva, che probabilmente sarà confermata in vista della crescita effettiva della quota di Del Vecchio, bisognerà capire quali saranno le intenzioni dell'imprenditore. Come dicevi tu, l'altra osservata speciale è naturalmente le generali, che oggi hanno guadagnato il 3,24% in borsa. Un rafforzamento Del Vecchio e Mediobanca potrebbe anche avere un impatto sugli equilibri nel capitale del Leone. Come ricordavi, Mediobanca ha circa il 13% di generali, a cui si aggiungerebbe virtualmente la quota di quasi il 5% in mano direttamente Del Vecchio e a quelle degli altri imprenditori italiani alleati, diciamo, che potrebbero formare un blocco rilevante all'interno del capitale delle generali. Naturalmente bisogna appunto vedere gli sviluppi. Delfin è una holding lussemburghese, quindi vedremo se ci sarà la strada spianata al raggiungimento di una quota importante di questa quota. Allora, per il resto, bene comunque l'1,80% rialzo di Milano, come dicevamo, bene Banco BPM più 6,50, Case New Holland, CNH più 6,50, Leonardo più 5,50, Tenaris più 4,5, Atlantia più 3,90, Fiat Chrysler più 3,5, Generali più 3,20, Unicredit più 3,13, Saipem più 3%, Diasori invece cede il 3,70, Campari l'1,5, Prismian l'1,40, Amplifon 1,20, di Cattolica abbiamo già parlato, peggior titolo meno 16,90%, grazie anche a Paolo Paronetto. Dalla finanza andiamo invece all'economia, che più economia non potrebbe essere, quindi l'andamento delle vendite nella fase 2, cioè da lunedì 4 a domenica 24 maggio. Che è praticamente dovrebbe essere l'ultimo rapporto in fase ancora, diciamo, non normale, nel senso che dal 4 maggio, ricorderete, hanno aperto anche bar e ristoranti per quello che riguarda l'asporto, poi dal 18 invece anche per il consumo. Abbiamo analizzato questi dati soprattutto a marzo e aprile, quando gli unici esercizi aperti erano supermercati e chi vendeva generi alimentari. E vediamo allora com'è andata dal lunedì 4 a domenica 24 maggio. Romolo De Camillis, direttore del Nielsen Connect in Italia, buonasera. Buonasera. Allora, ci dica che cosa è cresciuto sia a livello geografico che poi a livello di diciamo, merceologico. I dati di queste prime tre settimane di fase 2 che abbiamo consolidato sono comunque dati positivi, anche più positivi rispetto a quello che avevamo visto nelle ultime settimane del lockdown. Quindi stiamo parlando di crescite per la grande distribuzione alimentare nell'ordine del 7%. Mi soffermo su un dato anche di tipo più qualitativo. Assistiamo anche all'equilibrio di canali distributivi. Corrono ancora i negozi piccoli di prossimità, ma avanza anche il discount, no? Che fa poi dei prezzi bassi e dell'offerta conveniente un po' il suo punto di forza. Quindi crediamo che siano anche i primi segnali di difficoltà economiche, diciamo, da parte di alcune famiglie che ricorrono a questo canale. Però avete visto anche crescere gli acquisti la domenica, perché c'era un maggior numero di negozi aperti, anche perché il 24 maggio, al 24 maggio il 76% dei punti vendita erano aperti, no? Sì, esatto, magari non fanno ancora tutti l'orario, diciamo l'orario continuato, fanno una metà giornata, però è un altro segnale importante di progressivo ritorno alla normalità, quindi la percentuale di negozi aperti nell'ultima settimana di maggio era paragonabile a quelle che al livello di apertura che avevamo esattamente un anno fa, quindi stiamo rientrando anche in questo ambito, diciamo, su una normalità in termini di apertura dei punti di vendita nel giorno di domenica. Allora, oggi tra l'altro l'area studi di Mediobanca ha fatto notare che la grande distribuzione italiana, appunto, che non era interessata al lockdown, ha segnato incrementi intorno al 10% con punte del 30% per il confezionato e bene anche, come diceva lei, i piccoli. Veniamo e concludiamo sulle categorie merceologiche. Cos'è che è cresciuto molto? Ecco, allora concludiamo la parte dei canali dicendo che l'e-commerce continua a volare 170% nelle ultime tre settimane. Quanto ha fatto l'e-commerce? 170% in più nelle ultime tre settimane, quindi siamo di fronte ad una trasformazione, insomma, strutturale. Che sì, io penso, diciamo, che poi non so quanto questo, da questo si tornerà indietro, perché sappiamo nei fenomeni di consumo che una volta che tu utilizzi un canale nuovo e ti ci trovi bene, non è detto che tu torni poi, è finito il lockdown, a utilizzare i canali tradizionali, se l'e-commerce ha funzionato. Lo dico senza valutazione, come dato oggettivo. Prego. Ed è corretta come valutazione. Guardiamo nel carrello. Qualche timido segnale di ripartenza da junk food, quindi non alimentare. Sappiamo, insomma, che c'è molto da recuperare. Questo lo guardiamo sia nei negozi specializzati per i prodotti per la cura della casa e per la cura della persona, sia negli ipermercati, sono i casalinghi, quindi diciamo l'attenzione ancora una volta alla casa è quella che, diciamo, è stata prioritaria nella fase 2 per far ripartire le vendite. C'è anche un dato più significativo, interessante, anche abbiamo visto crescere molto le bevande nelle ultime settimane, quindi significa che i locali e i bar fanno ricorso anche ai punti di vendita della distribuzione per ritornare ad approvvigionarsi. Allora, grazie anche a Romolo De Camillis, direttore di Nelson Connect Italia. Ultimo tema di oggi, qui il volo è molto pindarico, la scuola. Perché? Perché da un lato poco fa il garante agli scioperi ha detto che ha revocato l'ipotesi di sciopero della scuola l'8 giugno, era stato convocato dai sindacati non sul tema di come verranno regolarizzati i precari nella scuola, però visto appunto che l'autorità ha detto ha sospeso l'ipotesi di sciopero l'8 giugno, però volevo tornare dopo che sono uscite le indicazioni del comitato tecnico scientifico arrivate a fine settimana scorsa al Ministero dell'Istruzione. Si andrà a scuola con la mascherina dai 6 anni in su e distanza personale interpersonale di un metro, sia in classe sia quando ci si muove nei corridoi. Resta però il tema se i docenti sono pronti a tornare in aula, anche perché vedo che ci sono ancora tensioni, penso in Lombardia, ma non solo, per trovare i commissari per la maturità. Eugenio Bruno del Sole 24 Ore, buonasera Eugenio. Buonasera Sebastiano, buonasera ai tuoi radioascoltatori. Allora, per capire, insomma, i dettagli sono lunghi, mi sembra che siano due i pilastri, chiamiamoli così, del comitato guidato da Patrizio Bianchi. Da un lato ridurre le gli orari di lezione e quindi scaglionare l'ingresso, dall'altro depenalizzare il reato di infortunio in un istituto scolastico, perché lì sappiamo che il timore era alto, sotto cui rientra il contagio da coronavirus. Se ci aggiorni anche sul tema degli insegnanti e quindi pronti a tornare in aula a settembre. Eugenio. Sì, proviamo a tenere insieme tutto. Sono ore calde per la scuola e lo saranno man mano che ci avvicineremo agli esami di maturità del 17 giugno e soprattutto alla riapertura di settembre. Il documento di Bianchi, sì, le indicazioni principali sono quelle. Faccio una premessa, è una versione ancora intermedia del documento, perché ci saranno ancora riunioni tra la task force guidata appunto dall'ex assessore dell'Emilia Romagna con i tecnici della ministra Azzolina. Diciamo, l'idea è provare a dare una serie di indicazioni che nel documento di Bianchi sono generiche, che il ministero cercherà di rendere un po' più strutturate, lasciando comunque all'autonomia delle singole scuole. Mi riferisco soprattutto al primo dei due temi, alla riduzione dei moduli orari. Tutto nasce dalla situazione in cui versano le nostre scuole, che sono vecchie, sono fatiscenti, sono insicure e che in queste condizioni devono ospitare il ritorno in classe di 8 milioni di ragazzi dopo il lockdown, dopo la pandemia. E quindi, diciamo, la situazione non è facile. Il tema degli insegnanti, dei supplenti, si collega perché tutta questa situazione emergenziale straordinaria si somma alle emergenze, quelle classiche di ogni inizio anno scolastico. A settembre chiunque di noi ha un figlio che ha frequentato o frequenta la scuola sa che per avere tutti gli insegnanti in cattedra in genere bisogna aspettare ottobre inoltrato. Ecco, se questa situazione si dovesse verificare anche quest'anno, diciamo, il caos sarebbe perfetto, cioè sarebbe un disservizio totale. I numeri sono numeri emergenziali anche sugli insegnanti. Oggi abbiamo pubblicato sul Sole una situazione di 109.000 supplenti, che è solo la situazione di partenza, è la fotografia che c'era a settembre dell'anno scorso e che rischia di esserci anche quest'anno. A quei numeri poi vanno aggiunte le supplenze che arrivano in corso d'anno, quindi il quadro non è dei migliori. Allora, dunque, qualcuno mi scrive, ho visto Cottarelli, devo dire che sono d'accordo con lui, è una battuta ma mica tanto. In Gran Bretagna riaprono le scuole prima dei pub. Ora, sapendo che il pub è un'istituzione in Gran Bretagna, e faccio notare che qui, ma non voglio tornare sulla polemica, abbiamo avuto il viceministro Ascani, qui abbiamo aperto prima gli spritz e le scuole intanto a settembre. Vabbè, così 17enni, 18enni possono andare al bar, ma non in classe. Ma non voglio tornare su una polemica che ho... polemica, su una critica che ho mosso da settimane. Per quello che riguarda l'altro elemento, tu parlavi, diciamo, dell'organico degli insegnanti, che già sempre è critico quando ripartono le scuole, manca solo che lo sia anche adesso. Parlavi di un'autonomia, ricordavi una certa autonomia ai direttori di istituto, se ho ben capito, no? Ai dirigenti scolastici, per capire come organizzarsi, e il comitato ha anche individuato l'esigenza di assumere il 15% di insegnanti in più oltre ai 32.000 precari che verranno stabilizzati con il concorso straordinario. C'è poi il tema dell'orario, cioè posticipare gli ingressi nelle superiori, per esempio dalle 9 fino alle 10, per evitare l'affollamento nell'orario di punta dei mezzi pubblici. Non penso che questo possa essere un enorme problema. E poi la temperatura presa davanti alla scuola non sarà necessario, ma gli studenti dovranno avere meno di 37,5 da almeno 3 giorni per poter entrare a scuola. Il tema delle responsabilità penali, Eugenio. Diciamo, i dirigenti scolastici sono preoccupati che in questo li posso capire, nel senso che poi o c'è una chiarezza nella norma, un po' come gli imprenditori quando abbiamo dovuto far passare del tempo per capire che non poteva essere accusato l'imprenditore se aveva messo in pratica tutte le misure di sicurezza per incidente sul lavoro nel caso di infezione. Anche qui posso capire i dirigenti scolastici. Questo è un film che abbiamo anche già visto in piccolo, perché non riguardava tutte le scuole, non riguardava tutte le classi, con i crolli a cui abbiamo assistito negli anni scorsi. Anche lì ci sono stati profili di responsabilità penale per i dirigenti, considerando anche lì il paradosso è che comunque gli stabili sono di proprietà degli enti locali, dei comuni o delle province, quindi i dirigenti anche in quel caso erano chiamati a rispondere per lo stato di manutenzione di luoghi di cui però non erano i legittimi proprietari. Sì, però questo è una raccomandazione di Bianchi o, per concludere, Eugenio, o il governo si sta muovendo in questa direzione? Perché non vorrei che restasse un altro elemento da superare, la responsabilità appunto in caso di diffusione del Covid dentro un istituto scolastico. È una raccomandazione, come tutte quelle che saranno contenute nel rapporto, sono tutte raccomandazioni che poi dovranno essere declinate a seconda dei casi, o in una circolare, quindi come raccomandazione, o in una norma di legge. Io credo che su questo punto serva una norma di legge. Sì, anche secondo me, perché la circolare può non avere abbastanza forza, diciamo, giuridica, Eugenio? Sì, sì, sì. Serve modificare la normativa. Su questo, secondo me, ci si arriverà, mentre su quel 15% in più di insegnanti che hai citato prima, lì non credo che quella... E quel suggerimento troverà accoglimento. Gli organici di quest'anno saranno uguali agli organici dell'anno scorso. Ci sarà un calo di studenti. Questo farà sì che avremo qualche insegnante in più. Forse si potrà utilizzare in tutto o in parte quei 50.000 docenti che fanno parte dell'organico dell'autonomia oggi. Questi saranno gli strumenti. Aumentare gli organici del 15%. Al momento non è realistico. Allora, grazie anche a Eugenio Bruno del Sole 24 Ore. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi domani non ci siamo, è la festa della Repubblica, viva la Repubblica Italiana. Ci risentiamo mercoledì dalle 17 in poi.